quasi più. Bianchi sentieri di sale vedremo, sole nell'anima. Vedo la nebbia che sale su e copre il mondo di più. Soffia il vento e tutto è sereno, sole nell'anima. Senza barriere, credo.